arrivando da quelle parti, dalla zona di Tilivani. Devi bere, avanti un po'. Oh, mica tua, cosa è, Luca? Magari, che devo ti intendere, avevo un culo così bello. Bella, bella cosa, Chissà, cazzo, la pigli fa così, la truffineggi sopra, dice Maria, cazzo. Ah, io faccio i fatti, non parole, fatti fritti, gatta. Anche tu pensi che io sia macco? Dici tu che sei macco, però sai com'è, no, gatto? Lui, attenzione, l'animale si allunga. Senti Luca, quello che ti chiama, gatto, il gatto. Sembra una mozzarella di quelle di bufala, gatto. americana in circo, ma dimmi a rubescio. C'è una bella rimaletta lungo, quale lungo, per capacità, per carità, grazie. Io non sono mai uscito di notte, e beh, primo tipo di clima. Ma l'ha detto, grazie, di sì. Te vecchiane in circo, te vecchiane. Tutta la sera faccio tu, poi l'ho tagliato perché si è bruciato il paravento. Lo recuperare l'altra parte, non dare in gossi, e uno di sci era quello panico. Cazzo di diavolo. Cazzo, qua, se era stata una persona che conoscevo io, cazzo, l'avrei picchiato. A gusto di lui. E già il primo ultima voce. E già mi butti più, sì, mi avari. Di gente che sa come muoversi, gente nocchitica, gaite, gente che sa veramente come bisogna fare il lavoro. Ascolta, dimmi come gira questo apparecchio, Antonio, come senti l'anima lunga, sai, con un coordinante mondo, Rosello chiama, cavagava. Volete la caparocca, non l'hai? Allora è tutta bella qua. La modulazione va tutto bene e va alla grande. Cambio! Io sono tutto gonfio. Sempre in giro, se stavi sempre in giro. Come vai, sei accaduto, sei a passeggio. Caldo c'hai. Salverio. Penso che macchina c'hai, Salverio. Salverio! Via. Tacchi a suore, cambio. Che macchina c'hai adesso? Siamo a tacchi di marca. Il nome della macchina è il tipo di macchina è suore. Suore? Tacchi e suore. Ah, così è, non ne hai? Non ne hai macchina? Positivo è una parrucchio. Cazzo, l'hai gribata, dai. E così gli sussidini, così gli sussidini, ai comuni mortali, cambia un passo. Sì, ragazzo, dai. Vabbè, dai, appena che c'è la possibilità, se ne pigli una, che andia. Allora, a te un po' pompone. Pompone al sindaco di Rizzetto, senti qua, cambio. Oh, ci siamo o non ci siamo? Grandi masturbatori, che è? Dite, è per il drone che vibra, cappello. Ci siamo. Positivo il caparroce, dai, io sono qua, tutto qua che lo ascolto, vi sto ascoltando e modulando, gap. Positivo il caparroce, non so se mi ascoltate con questo elicottero che vola, gap. Ancora ore bevi al giorno? No, lo so, quindi ho una casa. Sì, arriva in campagna di 15 mila e 15 mila. Su 45 io.